Le chiesi se Robert fosse stato contento d'avere una figlia. Oh, era molto fiero di lei. Ma naturalmente credo che, dati i suoi gusti, disse ingenuamente Gilbert, avrebbe preferito un maschietto. Questa figlia, il cui nome e il cui patrimonio potevano autorizzare sua madre a sperare che sposasse un principe reale e coronasse tutta la laboriosa ascesa di Swann e di sua moglie, scelse in seguito per marito un oscuro letterato, giacché non aveva il minimo snobismo, e fece ridiscendere la famiglia a un livello più basso di quello da cui era partita. A quel punto fu estremamente difficile far credere alle nuove generazioni che i genitori di quell'oscura coppia avessero occupato una posizione eminente. I nomi di Swann e di Odette de Crécy resuscitarono miracolosamente per consentire alla gente di spiegarvi che vi sbagliavate, che non si trattava affatto di una famiglia tanto su. E si riteneva insomma che Mademoiselle de Saint-Leu avesse fatto il miglior matrimonio possibile e che quello di suo padre, con Odette de Crécy, la quale non era niente, fosse stato fatto per cercare invano di elevarsi, quando invece, almeno dal punto di vista del suo amore, il suo matrimonio si era ispirato a teorie come quelle che spinsero nel XVIII secolo dei grandi signori, discepoli di Rousseau o qualche pre-rivoluzionario, a vivere la vita della natura e ad abbandonare ogni privilegio. Lo stupore per queste parole e il piacere che esse mi diedero furono ben presto sostituiti, mentre Madame de Saint-Leu si allontanava verso un altro salotto, dall'idea del tempo passato, cui mi riavvicinava a suo modo, e prima ancora che l'avessi veduta, anche Mademoiselle de Saint-Leu. Come la maggior parte degli esseri, d'altronde, non era forse anche lei quello che è in una foresta la stella di un crocevia, dove convergono strade che vengono, anche per la nostra vita, dai punti più disparati. Erano numerose per me quelle che conducevano a Mademoiselle de Saint-Leu e che si irradiavano attorno a lei. Prima di tutto, conducevano a lei le due grandi parti dove avevo fatto tante passeggiate e tanti sogni. Attraverso suo padre Robert de Saint-Leu, la parte di Germain, attraverso Gilbert, sua madre, la parte di Méséglise, che era poi la parte di Swann. Una, tramite la madre della fanciulla e i Champs-Élysées, mi portava sino a Swann, alle mie sere di Combray, alla parte di Méséglise. L'altra, tramite suo padre, ai miei pomeriggi di Balbec, dove lo rivedevo accanto al mare, illuminato dal sole. E già, fra queste due strade, si disegnavano vie trasversali. Infatti, quella Balbec reale, dove avevo conosciuto Saint-Leu, era stato in gran parte a causa di ciò che Swann mi aveva detto delle chiese, della chiesa persiana soprattutto, che avevo tanto desiderato andarci. E d'altronde, attraverso Robert de Saint-Leu, nipote della duchessa di Germain, raggiungevo ancora a Combray la parte di Germain. Ma a molti altri punti ancora della mia vita conduceva Mademoiselle de Saint-Leu, alla signora in rosa che era sua nonna e che avevo vista a casa del mio prozio. Nuova via trasversale. Qui. Perché il cameriere di quel prozio, che quella sera mi aveva fatto entrare e che più tardi, regalandomi una fotografia, mi aveva consentito di identificare la signora in rosa, era il padre del giovane che non solo il signor di Charlus, ma lo stesso padre di Mademoiselle de Saint-Leu aveva amato, facendo per lui l'infelicità di sua madre. E non era stato il nonno di Mademoiselle de Saint-Leu, Swann, a parlarmi per primo della musica di Vinteuil, così come Gilbert era stata la prima a parlarmi di Albertine. Ora era stato parlando della musica di Vinteuil ad Albertine, che avevo scoperto chi fosse la sua grande amica e cominciato con lei quella vita che aveva condotto lei alla morte e causato a me tante sofferenze. Era stato del resto il padre di Mademoiselle de Saint-Leu a mettersi in viaggio per tentare di far tornare Albertine, e persino tutta la mia vita mondana, a Parigi nel salotto Swan o in quello Germain, come all'opposto dei Verdurin, affiancando così alle due parti di Combray, ai Champs-Élysées, la bella terrazza della Raspellière. D'altronde, quali esseri abbiamo mai conosciuti che per raccontare la nostra amicizia con loro non ci costringano a situarli via via in tutti i punti più diversi della nostra vita? Una vita di Saint-Leu, descritta da me, si svolgerebbe in tutti gli scenari e interesserebbe tutte le parti della mia vita, comprese quelle a cui egli fu più estraneo, come mia nonna o come Albertine. D'altronde, pur essendo così all'opposto, i Verdurin si collegavano a Odette tramite il suo passato, a Robert de Saint-Leu tramite Charlie, e che ruolo aveva avuto a casa loro la musica di Vinteuil. Infine, Swan aveva amato la sorella di Le Grandin, il quale aveva conosciuto il signor di Charlus, di cui il giovane Cambremer aveva sposato la pupilla. Certo, se è solo dei nostri cuori che si tratta, il poeta ha avuto ragione parlando dei fili misteriosi che la vita spezza, ma è ancora più vero che essa ne getta senza sosta fra gli esseri, fra gli avvenimenti, che li intreccia questi fili, che li raddoppia per ispessire la trama, così che fra il minimo punto del nostro passato e ciascuno di tutti gli altri una ricca rete di ricordi non lascia che l'imbarazzo di quali comunicazioni scegliere. Si può dire che non ci fosse, se cercavo di non usarle in modo inconsapevole, ma di ricordare ciò che erano state, una sola delle cose che ci servivano in quel momento, che non fosse stata una cosa viva, e viva d'una vita personale per noi, trasformata poi, a nostro uso, in semplice materia industriale. La mia presentazione a Mademoiselle de Saint-Leu sarebbe avvenuta in casa di Madame Verdurin. Con quale rapimento ripensavo a tutti i miei viaggi in compagnia di quell'Albertine, di cui avrei chiesto a Mademoiselle de Saint-Leu d'essere un succedaneo, nel piccolo tram, in direzione di Deauville, per andare da Madame Verdurin, la stessa Madame Verdurin che aveva annodato e spezzato, prima del mio amore per Albertine, quello del nonno e della nonna di Mademoiselle de Saint-Leu. Tutti intorno a noi stavano i quadri di quell'Elstir che mi aveva presentato ad Albertine, e per meglio fondere tutti i miei passati, Madame Verdurin, proprio come Gilbert, aveva sposato un Germain. Non potremmo raccontare i nostri rapporti con un essere, anche se lo abbiamo conosciuto appena, senza evocare in successione tutti i diversi luoghi della nostra vita. Così, ciascun individuo, e io stesso ero uno di questi individui, misurava per me la durata con la rivoluzione da lui compiuta non solo attorno a se stesso, ma attorno agli altri, e in particolare con le posizioni occupate via via rispetto a me. E tutti questi piani diversi, secondo i quali il tempo, da quando in questa festa lo avevo riafferrato, disponeva la mia vita, facendomi pensare che in un libro destinato a raccontarne una si sarebbe dovuto usare, in contrasto con la psicologia piana di cui si fa solitamente uso, una sorta di psicologia nello spazio, aggiungevano senza dubbio una bellezza nuova alle resurrezioni operate dalla mia memoria, mentre meditavo in solitudine nella biblioteca, giacché la memoria, introducendo il passato nel presente senza modificarlo, tale quale era nel momento in cui era il presente, sopprime appunto quella grande dimensione del tempo che la vita segue nel realizzarsi. Vidi tornare Gilbert. Rimasi sbalordito. Io, per cui erano di ieri il matrimonio di Saint-Luc, i pensieri che mi occupavano allora e che erano gli stessi di stamane, vedendo al suo fianco una fanciulla di circa 16 anni, la cui alta statura misurava la distanza che non avevo voluto vedere. Il tempo, incolore e inafferrabile, si era, perché io potessi per così dire vederlo e toccarlo, materializzato in lei. L'aveva plasmata come un capolavoro, mentre su di me, parallelamente, non aveva fatto, ahimè, che il suo lavoro. Intanto Mademoiselle de Saint-Luc era davanti a me. Aveva gli occhi profondamente incavati e penetranti, e anche il naso incantevole, leggermente prominente, a forma di becco e ricurvo. Forse non era come quello di Swann, ma come quello di Saint-Luc. L'anima di quel Germain era svanita, ma l'incantevole testa, dagli occhi penetranti dell'uccello fuggito, era venuta a posarsi sulle spalle di Mademoiselle de Saint-Luc, e questo faceva lungamente fantasticare chi aveva conosciuto suo padre. Mi colpì che il suo naso, quasi ricalcato su quello di sua madre e di sua nonna, fosse rifinito a perfezione da quella linea affatto orizzontale sotto il naso, sublime, benché non sufficientemente breve. Un tratto così particolare avrebbe reso riconoscibile fra migliaia una statua, quand'anche non si fosse visto che quello, e ammiravo come la natura fosse intervenuta ancora al momento giusto, per la nipote come per la madre, come per la nonna, a dare, da grande e originale scultore, quel potente e decisivo colpo di scalpello. La trovavo molto bella, piena ancora di speranze, ridente, formata dagli stessi anni che io avevo perduti. Assomigliava alla mia giovinezza.